Sette cose che Dio odia. Leggo nella Bibbia in Proverbi capitolo 6, versi 16 a 19. Sei cose odia il Signore, anzi, sette gli sono in abominio. Gli occhi alteri, la lingua bugiarda, le mani che spargono sangue innocente, il cuore che medita disegni iniqui, i piedi che corrono frettolosi al male, il falso testimone che proferisce menzogne e chi semina discordia tra fratelli. Chiariamo subito un concetto. Questo non è un elenco esaustivo delle cose che Dio odia, né è un ripensamento del tipo «ci sono sei cose, anzi no, ora che ci penso bene ce ne sono sette». In questo brano viene infatti utilizzato un espediente letterario tipico della poesia ebraica, una numerazione sequenziale di cui ci sono diversi esempi nella Bibbia quando vengono fatte delle liste. Si legge ad esempio in Proverbi 30 oppure nel libro di Amos i primi capitoli in cui si trova diverse volte la sequenza 3 anzi 4. L'effetto è quello di attirare l'attenzione del lettore su qualcosa di importante che viene sottolineato attraverso questa struttura. Tra l'altro, se si pensa che il numero 7 è spesso associato alla completezza, in questo caso l'effetto finale è quello di far pensare a qualcosa che Dio odia profondamente, in maniera completa. Addirittura viene utilizzata la parola abominio, ad indicare che si tratta di cose che suscitano il disprezzo e la ripugnanza in Dio. Qual è la natura delle cose presenti nell'elenco? La prima non ci sorprende. Infatti l'alterigia, l'orgoglio, è proprio l'atteggiamento che impedisce all'uomo di avere un rapporto con Dio, perché solo uno spirito umile può riconoscere il bisogno di Dio. Le altre sei voci dell'elenco sono tutti atteggiamenti che caratterizzano proprio una società lontana da Dio, compresa la nostra nel XXI secolo. Una società basata sulla menzogna, sullo spargimento di sangue innocente, sulla premeditazione del male, sulla realizzazione del male premeditato, sulla falsa testimonianza, sull'esasperazione della competizione fino a provocare discordia. È una società che va verso la rovina. Si tratta di un modo di vivere che coinvolge la lingua, le mani, il cuore, i piedi, ovvero tutto l'essere. Nella nostra società molte di queste cose sono consolidate. Basta ad esempio guardare un telegiornale per rendersi conto di come, fino ai più alti livelli, la menzogna e la premeditazione del male sembrano talmente radicate nella nostra società da sembrare inestirpabili. Qualcuno si sarà stupito di leggere l'ultimo punto dell'elenco, seminare discordie tra fratelli. In un certo senso non sembra tanto grave come gli altri punti, vero? Eppure Gesù ci ha chiamati ad essere operatori di pace, per portare le persone ad essere riconciliate con Dio anche attraverso la nostra buona testimonianza. Sarà il modo in cui mostriamo l'amore tra di noi a dimostrare l'amore che abbiamo per Dio e ad attirare le persone verso quell'amore. Se ci pensiamo bene, in questo senso, le zizzanie che a volte seminiamo con tanta leggerezza, provocando discordia, cose che quasi consideriamo normali, rientrano invece nelle cose ripugnanti per Dio, e se sono ripugnanti per Dio, dovrebbero esserlo anche per noi. Teniamo quindi queste cose ripugnanti fuori dalla nostra vita e denunciamole anche nel nostro piccolo, nelle situazioni che viviamo ogni giorno. Non abituiamoci ad esse come se fossero normali, perché nel momento in cui ci abituiamo a queste cose ripugnanti, in qualche modo diventiamo complici.